Il ragazzino seduto davanti a me in tram ha l'aria buona, gli occhiali spessi e i capelli tagliati corti. Indossa un paio di pantaloni a tre quarti che a me sembrano troppo larghi, anche se so che adesso vanno di moda così, e una maglietta nera di cotone su cui spicca in bianco a caratteri di scatola la scritta «Life is short, fight hard». La vita è breve, lotta duramente. Un motto suggestivo per chiunque abbia una qualche nozione di inglese, anche se il suo portatore, che sarà occhio e croce sui 15 anni, non può avere un'idea molto precisa su quanto realmente sia breve la vita, e con quella sua aria da tontolone non sembra troppo propenso alle lotte e ai combattimenti. Ma in fondo quel verbo in inglese come in italiano copre uno spettro semantico abbastanza ampio perché lo si possa applicare a qualsiasi soggetto. Non si lotta soltanto menando le mani o prendendo un nemico a cannonate, lo si fa anche impegnandosi a non deflettere dagli obiettivi che si considerano opportuni e desiderabili, e tanto è vero che c'è chi lotta per la pace o afferma di farlo e nessuno avverte nel suo impegno la benché minima sfumatura di contraddizione. D'altra parte il fatto che quella esortazione sia icasticamente connessa all'affermazione della brevità della vita un po' fa pensare, perché mai in definitiva la coscienza della fugacità del nostro itinerario terreno dovrebbe spingerci alla lotta, e per di più dura. Forse perché, come osservavamo prima, lotta è sinonimo di impegno, e solo nell'impegno, nella costante dedizione a un ideale, la vita dell'uomo trova un significato che ne compensa l'irrilevanza sul piano cosmico? Può darsi. Ma il messaggio, francamente, mi sembra un po' troppo serioso per una maglietta. Le frasi sulle magliette esprimono spesso delle verità importanti, ma a parte il fatto che in genere tendono ad alleggerirne l'impatto presentandole in forma di battuta, di solito la loro saggezza è di tipo, diciamo così, pratico. Una pura e semplice esaltazione dello streben goetiano mi sembra in quella sede un tantino fuori luogo. E quale può essere allora l'invito che la saggezza pratica fa seguire alla presa di coscienza di quanto si effimera questa nostra esistenza? Non è una domanda difficile. Da sempre, generazioni di poeti ci hanno esortato in tutte le lingue a godere dei doni che la vita ci offre, a non lasciarci sfuggire una rosa che sia una, a dilettarci finché possiamo del vino della coppa, a cogliere il giorno che fugge, quam minime creduli postero. E a pensarci bene, di magliette inscritte con le più ingegnose variazioni sul tema del carpe diem ricordo di averne viste in giro parecchie. E sì, d'accordo, mi direte voi, ma la lotta che c'entra? Pensarci bene, in questo contesto la lotta, intesa nel senso meno metaforico possibile, c'entra fin troppo. In linea di massima, i doni della vita non sono tali che fino a un certo punto bisogna ben guadagnarseli, e bisogna evitare che se li accaparrino gli altri. Siamo in più di 6 miliardi su questo pianeta acciaccato, e di rose, ahimè, di rose non ce ne sono per tutti. Se vuoi goderti la vita, mio caro ragazzo con la maglietta nera, devi essere sempre pronto a mollare qualche sganassone alla concorrenza. Insomma, quella frase che a prima vista sembrava la traduzione in inglese di una massima del Marchese de Coubertin può essere benissimo l'originale di un'esortazione di Cassius Clay. D'altronde, to fight in inglese non esprime solo un generico lottare in senso proprio figurato, può riferirsi anche a forme altamente specifiche di combattimento. Come il suo omologo tedesco Fechten ha finito con lo specializzarsi nel significato tecnico di praticare la scherma, e to fight nei contesti appropriati si usa per indicare l'attività di chi tira di box. E siccome chi tira di box non è nella maggior parte dei casi famoso per la delicatezza dei modi, significa anche picchiare e pestare. O, come scoprirò una volta tornato a casa sul vocabolario, to use aggressive rough tactics. Usare una tattica rude e aggressiva, insomma, la vita è breve e tu pesta giù duro. Di primo acchito, l'idea che un giovane dall'aspetto così mite andasse in giro con un'esortazione del genere impressa a grandi caratteri sul torace mi ha un poco immelanconito. Poi mi sono consolato riflettendo che la conoscenza media delle lingue straniere nelle scuole non è di livello tale da permettere a tutti di cogliere certe sfumature. Al ragazzino sul tram probabilmente quella frase, quella scritta era piaciuta per quel tanto di anticonformista e di ribelle che ci si può cogliere a primissima vista, e lui, esibendola, intendeva semplicemente esprimere il rifiuto di una concezione troppo melensa del mondo. Anch'io, in età non proprio pari alla sua ma tutto sommato abbastanza giovanile, e lo solito scandire slogan che esortavano la lotta dura senza paura, e non per questo venivo meno, ve lo assicuro, alla mia innata mitezza. Il vero guaio è che nell'esortazione a pestare gli altri per sottrargli la loro parte di doni della vita, di bene di consumo se vi sentite di umore prosastico, non c'è proprio nulla di ribelle o di anticonformista. Nell'invito a impiegare nell'approccio con l'esistente una tattica rude e aggressiva, perché i propri personali interessi bisogna in prima istanza badare, gli altri si grattino pure, e consiste in ultima analisi l'ideologia ufficiale del governo in carica. E che non si tratti dell'aberrazione di un ceto politico fuori di testa, ma di un punto di vista ampiamente radicato nel corpo sociale, lo dimostra non solo l'ampia maggioranza e la diffusa simpatia di cui quel governo gode nel paese, ma il fatto che la stessa opposizione non sembra disposta a impegnarsi su formulazioni tutto sommato diverse. E sì, lo ammetto. Ammetto che quando ti vengono in mente la protervia del governo e la remissività dell'opposizione, l'invito a pestare giù duro può apparire straordinariamente allettante, ma forse non è il caso. La vita è breve, meglio usare il cervello.